Storia, storielle, storiacce di Raffaella Calandra. Adamo era una persona speciale. Chi l'hanno ammazzato? Io non so il perché. Mio figlio è stato ucciso. Se nessuno potrà ridargli uno dei figli, Vincenzo Bove vorrebbe almeno sapere il motivo di quella morte, il perché il 21 luglio scorso il corpo di Adamo, manager della sicurezza di Telecom, giaceva senza vita sulla tangenziale di Napoli dopo un volo di decine di metri. ...42 anni, 1,90 m di altezza e una laurea in giurisprudenza. Adamo Bove arriva al gruppo Telecom dopo una lunga esperienza in polizia. Era uno dei due gemelli, nati il 19 dicembre 1964, nella famiglia di un ex maresciallo dei carabinieri di origini campane, e come il padre era entrato nelle forze dell'ordine, in polizia. Come agente della direzione investigativa antimafia, aveva inseguito pericolosi criminali in Italia e all'estero e messo le manette a più latitanti. Non ha mai smesso di essere poliziotto, ricordano i familiari. Non aveva mai smesso la divisa, nemmeno quando nel 1998 arrivò quella chiamata che lo portò alla direzione della security governance del gruppo Telecom. Lavora in uffici dove passa la gestione del delicato settore delle intercettazioni telefoniche. Collabora con la magistratura, impegnata in alcune tra le più delicate inchieste, come quella per il rapimento di Abu Omar. Ma contemporaneamente un suo collega finisce sotto indagine a Milano con gravi accuse, mentre si scopre l'esistenza del sistema radar che permette intercettazioni anonime. In mezzo a questo c'era Adamo Bove e forse, secondo i suoi familiari, in questi gangli c'è anche il perché della sua morte. Avere notizie, capire, è questo il suo principale desiderio oggi. Un'esigenza che traduce in un appello alla Procura di Napoli che sulla morte di Adamo Bove ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Io e mia moglie e gli altri non riusciamo a spiegarcelo, perché se ci fosse stato uno dei motivi, spontaneamente viene da chiedersi, uno che praticamente muore in quelle circostanze, no? Veramente uno è portato a pensare a una depressione, a problemi, diciamo, economici, affettivi, di lavoro o di altro tipo, no? Perché non esiste nulla di tutto questo, o perlomeno i problemi di lavoro sono quelli che hanno tutti quelli che lavorano. Quindi non c'era nessun motivo specifico che potesse far pensare a un gesto folle di quel tipo, cioè se, così come è stato detto, che era un suicidio. Non ci crede Vincenzo Bove alla possibilità che il figlio Adamo abbia potuto semplicemente decidere di farla finita. Troppi particolari non lo convincono. Lui è stato domenica qui, il giorno prima era stato a una festa data a Fregene da mia nuova, perché stavano al mare, no? E avevano festeggiato i 40 anni, c'erano circa 50 persone, un'orchestrina. A Milano era andato a lavorare. Poi la moglie lo chiamò perché dovevano fare questo trasloco. E lui andò a Napoli. E ancora troppi tasselli, a suo dire, non combaciano nella ricostruzione delle ultime ore di vita a Napoli, terminate con l'immagine di un'auto accostata sulla rampa della tangenziale di Via Cilea e un corpo adagiato a terra. Dovevano cambiare case e stavano montando la cucina alcuni operai. Disse alla moglie: io me ne vado un po' a casa a riposarmi. E me ne vado con la funicolare, no? Ha detto: no, perché non ti prendi la macchina? Ci prendi una delle due e te ne vai a casa in modo che vai a riposare. Il fatto che lui abbia fatto un itinerario diverso da quello, diciamo, che lo portava a casa, e quindi già questo c'è una stranezza. Modi per un suicida, per potersi uccidere, non accosta la macchina col motore acceso e con i fari di posizione accesi. Quei Questa è la scena che gli inquirenti trovano. Una mini minor con i lampeggianti accesi ferma nel traffico dello svincolo del Vomero e sotto, ad una ventina di metri sull'asfalto, il corpo senza vita di un uomo. Camicia bianca, jeans, capelli neri, è Adamo Bove. Non un saluto alla moglie Wanda, che conosceva dai tempi del liceo. Non un biglietto all'amata madre, che sentiva così tante volte al giorno da far quasi, confidano scherzando i familiari, ingelosire la compagna. Non una parola col padre né col fratello, anche lui alto funzionario in Telecom. Niente di niente, perché, secondo i genitori, lui non aveva intenzione di congedarsi da loro e dalla vita. Si sa che cosa ipotizzo? Che questi che lo seguivano, uno di questi si è seduto al suo fianco con una bella pistola. Queste però sono ipotesi mie, non ho nessuna prova, ma possono, diciamo, essere verosimili. Arrivato a un certo punto gli ha intimato di fermarsi, mio figlio e l'altra persona sono scesi, quello una spinta e lo hanno buttato sotto. Questa è una mia personalissima ipotesi. In realtà, fino ad ora, un testimone sentito dalla Procura di Napoli dice di aver visto un uomo solo affacciarsi dal parapetto della tangenziale e lanciarsi nel vuoto. Una sola sagoma, nessuno accanto, ma Vincenzo Bove resta convinto della sua ricostruzione. Non perché rifiuto di credere che mio figlio abbia potuto suicidarsi, perché questo capita alle migliori persone. A Napoli c'è un detto: il cervello è una sfoglia di cipolla, no? Nel senso che, insomma, tutti possiamo venir meno, però un segno bisogna pure averlo dato, no? Di squilibrio, di preoccupazione, di cose che a me non risultano. Dal 21 luglio ci pensa e ci ripensa Bove padre a eventuali segnali lanciati dal figlio e non raccolti, ma invece di trovarli, sempre più tracce riemerse dalla memoria gli sembrano rafforzare la sua ipotesi. Lui veniva pedinato sia a Roma che a Napoli, in modo, diciamo, strano, come dire, in modo plateale, cioè in modo irrituale. Lui, che aveva un'esperienza, un passato anche nelle forze dell'ordine, se n'era reso conto? Reso conto, e quindi lui lo riteneva che questo pedinamento, questi continui pedinamenti, avevano il sapore di un avvertimento, ecco. E cioè questi facevano vedere, perché io stesso ho fatto dei pedinamenti, poi in modo elementare tutti comprendono, il pedinamento viene fatto con discrezione, con riservatezza, invece quelli facevano il contrario, appunto per intimidirlo. Cioè si lasciavano vedere? Si lasciavano vedere in modo che, guarda, noi siamo qua. E io stesso sono stato testimone di uno di questi pedinamenti, perché quando venne a cena qui a Roma, io lo accompagnai sotto, dice: papà, se noi scendiamo ti faccio vedere. E infatti puntualmente di fronte all'entrata principale del palazzo dove appunto io abito, c'erano due figure vestiti in modo casuale con jeans e stavano lì. E allora dico: ma io in napoletano, no, in dialetto, ma visto che rompono l'anima, questi manco per la testa, non si sono minimamente, diciamo, risentiti o cose del genere. Lui praticamente era rimasto sempre poliziotto, ecco, quindi non voglio dire che sottovalutava certi pericoli, ma certamente non li temeva. Ma aveva dei sospetti, vi aveva confidato qualcosa? Sì, certamente. Vicino a Piazza Corri, dove c'era il palazzaccio, perché mio figlio abitava lì, no? Affrontò uno di questi e questo gli rispose in inglese. Lui mi disse: dice, non mi è dato sapere se hanno fatto finta di non conoscere l'italiano o che mi hanno risposto comunque in inglese. Li affrontò ma a muso duro. Poi vicino a casa sua notò un furgone con le portiere aperte, lui rovistò lì nel cassetto e trovò una carta di circolazione che pare fosse intestata a una società di noleggio. Pensò anche all'intelligence americana Adamo Bove e a posteriori molto seri furono definiti questi pedinamenti da fonti giudiziarie milanesi, molto seri anche per il momento in cui ebbero inizio e che lega proprio il nome di Adamo Bove ad una delle più complesse e controverse inchieste in corso nel capoluogo lombardo, l'indagine sul rapimento dell'ex imam Abu Omar. Ma dico, ma scusa, tu perché non denunci questo fatto? Papà, io voglio essere certo di queste persone, innanzitutto non voglio creare inutili allarmismi, forte del suo passato, poi questo è caratteristico di chi non fa del male, non teme appunto nulla perché non aveva ragione, poiché lui non ha mai smesso di essere poliziotto, ecco, pur sapendo che aveva condotto degli accertamenti, delle indagini molto delicate, sapeva affrontare certe situazioni. Per cui questi personaggi non temeva più di tanto, perché volevano intimorirlo, ma lui in effetti non si intimoriva. Ecco, e aspettava, diceva adesso vado dal magistrato, magari gli vado a raccontare questi fatti. Comunque poi presi dal lavoro, lui al lunedì attaccava e andava in giro per l'Italia, per cui lui ha detto, dice, a me non è che mi preoccupi, mi danno soltanto fastidio, ecco, un fastidio, lui questo l'ha avvertito, un disagio. Quindi prima o poi aveva intenzione di raccontarlo. Cioè, di riferirlo per vedere un po' che cosa volessero fare, perché lui, ripeto, per la sua vita non ha mai temuto. Ma aveva dei sospetti, vi aveva confidato qualcosa? Sì, certamente, lui insomma... Questo mio dire non è, diciamo, fantasioso, dire racconti che mi faceva lui, anche malvolentieri, che lui era di poche parole, muso duro. Mi aveva raccontato che questi fatti volevano significare sia un avvertimento, però maturati in una vendetta che altri nutrivano nei suoi confronti, una pura vendetta. Era una cosa che andava avanti da parecchio tempo, c'erano stati più episodi. Guarda, iniziò da maggio questo fatto, in coincidenza di altre circostanze, ripeto che lui aveva reso un servizio alla giustizia, ecco. Pochi giorni prima, esattamente il 26 aprile, Adamo Bove aveva infatti incontrato un vecchio amico, il capo della Digos di Milano, Bruno Megale. Al fidato funzionario della Telecom, l'ispettore chiese una mano per identificare 4 cellulari individuati durante le indagini per la scomparsa di Abu Omar, l'ex imam della moschea di Via 40, indagato a Milano per terrorismo e portato via la mattina del 17 febbraio 2003 in un'operazione, secondo la procura, congiunta tra CIA e Sismi. La sera stessa del 26 aprile Bove rivelò agli inquirenti chi ci fosse dietro quelle utenze. 3 agenti del servizio segreto militare, ma anche, come riporta un'inchiesta dell'Espresso, un uomo della sua azienda, Tiziano Casali, colui che curava la sicurezza personale di Marco Tronchetti Provera. Una miscela che avrebbe fatto tentennare chiunque, anche un ex poliziotto, e la dedizione totale al suo lavoro è forse ora l'unico rimprovero, se così si può chiamare, che la madre gli rivolge. Gli posso dire adesso che non c'è più, si è fidato un po' troppo delle sue spalle, era un giovane di 1,90 m che faceva impressione solo a me quando lo vedevi entrare. Il racconto dei genitori di Adamo Bove sui tanti dubbi che ancora avvolgono la morte del figlio torna tra poco.